Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Marta Marzotto è una persona che rispetta il limite ma non conosce il limite. E questa effettivamente, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, è la sintesi, la cifra, la sintesi connotativa di Marta Marzotto, che è morta a 85 anni e che da mondina della Lumellina è diventata una grande protagonista dell'alta società, di un pezzo importante della storia italiana. E parleremo di lei con chi ha scritto, proprio è uscito il mese scorso, giugno, un libro a quattro mani, questa giornalista con Marta Marzotto, in cui lei racconta la sua vita, gli eccessi, l'esuberanza, la sua voracità di vita. Ne parleremo più tardi e poi parleremo anche di stress test sulle banche, perché ci sono anche delle italiane naturalmente coinvolte, i cui risultati dovrebbero arrivare verso le 22, dovremo coglierli al volo qui Effetto Notte. Poi c'è Hillary Clinton, che ha formalmente accettato la nomination per la Casa Bianca, quindi faremo un bilancio delle due convention, la sua, quella democratica, e quella invece repubblicana di Trump, e anche cercheremo di capire quale America voterà per Hillary Clinton e quale invece per Trump. Poi c'è il Papa, che alla Via Crucis, oggi è stato Auschwitz, ma ha detto anche delle cose importanti alla Via Crucis, ha detto: dov'è Dio se ci sono fame, terrorismo e profughi? E questa è una bella domanda. E poi ci sarà spazio anche per il meteo, visto che questo è un fine settimana particolarmente caldo, non solo per il meteo ma anche nel senso di partenze verso l'estate. Insomma, come sempre, un sacco di temi con Effetto Notte sui quali voi potete esprimere le vostre riflessioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, 349-238-6666, che è il numero per WhatsApp ed SMS. E tenete presente, fra l'altro, che questa è l'ultima puntata della stagione di Effetto Notte, poi ritornerò puntualmente ad informarvi da settembre. Quindi a maggior ragione non perdete questa puntata e anche, naturalmente, come sempre, il rito iniziale, che è il riassunto della giornata. La guerra in Siria ha bombardato l'ospedale pediatrico di Idlib. Save Children denuncia vittime tra bimbi e medici. Terrorismo, l'FBI avverte rischio diaspora di terroristi senza precedenti, aumenta la possibilità di attentati terroristici nell'Europa occidentale e negli Stati Uniti. Lanciata l'iniziativa lanciata dal Consiglio francese del culto musulmano, domenica di dialogo, musulmani in chiesa con i cattolici, un'iniziativa anche in 15 città italiane, la CEI commenta, è un gesto enorme. Il Papa in Polonia, il silenzio di Francesco nella visita ad Auschwitz e durante la Via Crucis a Cracovia, rilancia l'interrogativo nel silenzio sul silenzio di Dio. Dov'è Dio se ci sono fame, terrorismo e profughi? Presidenziali americani, alla convention democratica Hillary accetta la nomination e dice: si apre un nuovo capitolo, insieme siamo più forti. Lavoro, cresce l'occupazione, i giovani senza lavoro sono al minimo, Renzi commenta, merito del Jobs Act. Monte Paschi, via libera della Banca Centrale Europea al piano di salvataggio, e è morta Marta Marzotto, a lungo esuberante protagonista dell'alta società, aveva 85 anni. E partiamo subito purtroppo dalla guerra in Siria, con il bombardamento di un ospedale pediatrico. Sarebbero almeno due le vittime dei bombardamenti di Idlib in Siria, molti i feriti tra i pazienti e i medici dell'ospedale pediatrico della città. Nella struttura, la più grande della zona, avvengono 300 parti al giorno. La città di Idlib si trova nella Siria nord-occidentale ed è in una zona sotto il controllo dei ribelli. Un fotogramma tragico di quanto sta avvenendo in un paese, la Siria, sconquassato da una guerra che va avanti da 5 anni e ha ucciso oltre 280.000 persone. Ad Aleppo, intanto, la strada strategica del castello, nel nord della città, resta in mano dell'esercito siriano ed è l'interruzione della via di comunicazione più importante per i terroristi islamici. A comunicarlo il comando generale delle forze armate siriane. I residenti di Aleppo Nord invece raccontano, e la fonte è l'agenzia Asia News, di decine di combattenti in fuga. Il governo russo annuncia intanto l'apertura di 4 corridoi umanitari ad Aleppo. Oggi l'inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Staffan de Mistura, ha però proposto alla Russia di delegare all'ONU la gestione dei corridoi umanitari per Aleppo. L'ormai imminente vittoria del fronte Assad, Putin, ha immediate ricadute anche sul fronte al-Nusra. L'organizzazione terroristica ha infatti annunciato la rottura con Al-Qaeda. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Intanto l'FBI lancia l'allarme sul rischio di una diaspora, di un ritorno dei foreign fighters dalla Siria verso l'Occidente. Ci sarà una diaspora di terroristi dalla Siria verso l'Occidente mai vista prima, parola di James Comey, il capo dell'FBI, secondo il quale i successi contro l'ISIS in Iraq e Siria e la conseguente fuga degli jihadisti porteranno ad un aumento della possibilità di attentati terroristici nell'Europa occidentale e negli Stati Uniti. Intanto, da un rapporto Europol sul terrorismo emerge l'aumento del numero di donne europee che scelgono di unirsi al califfato in Siria e Iraq. Ormai circa il 40% del totale dei fighters partiti dall'Olanda è di sesso femminile, rivela Europol, che segnala numeri in crescita anche da Belgio e Gran Bretagna. Sul fronte indagini, nuovi elementi rafforzano la tesi che gli attentatori in Germania avessero legami con l'ISIS. Quello che ha agito ad Ansbach aveva scaricato sul suo computer un video di propaganda del califfato che ritraeva uno sgozzamento. Non solo, poco prima dell'attentato aveva comunicato via chat con qualcuno in Medio Oriente. Lo stesso avrebbe fatto l'attentatore del treno a Würzburg. La Francia intanto si muove sul fronte prevenzione. Il premier francese Manuel Valls si dice favorevole all'interruzione temporanea dei finanziamenti stranieri alla costruzione di moschee, nonché alla formazione degli imam in Francia e non altrove. Secondo media transalpini, il ministro dell'interno Cazeneuve starebbe pensando ad una sorta di concordato per l'Islam che permetterebbe allo Stato un migliore controllo di imam e moschee. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con le notizie restiamo in Francia, dove proprio il primo ministro Valls ha ammesso gli errori nelle strategie antiterrorismo. C'è un nuovo fermo nell'ambito delle indagini sull'omicidio di padre Jacques. È un richiedente asilo siriano rintracciato in un centro di accoglienza del dipartimento dell'Allier. Sono quindi tre gli arrestati: un familiare di Abdel Malik Petitjean, uno degli aggressori, e un sedicenne vicino all'altro assassino, Adel Kermiche. Ed è proprio parlando di Kermiche, che da marzo era uscito dal carcere in libertà vigilata dopo aver tentato di raggiungere la Siria, che il premier francese Valls ha ammesso che la magistratura antiterrorismo francese ha fallito. Intervistato dal quotidiano Le Monde, Valls ha detto che questo dovrebbe condurre i magistrati a un approccio diverso, ma che in ogni caso, anche nella lotta al terrorismo, c'è una linea invalicabile che è lo Stato di diritto. Intanto la Coreis, la comunità religiosa islamica italiana, ha annunciato che condividerà l'iniziativa del Consiglio francese del culto musulmano, che ha invitato i fedeli islamici a recarsi domenica in una chiesa per esprimere solidarietà e cordoglio per il barbaro assalto di Rouen. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 Ore. E poi c'è l'iniziativa di cui abbiamo parlato ieri qui Effetto Notte, lanciata dal Consiglio francese del culto musulmano, che ha lanciato un appello ai musulmani in Francia dicendo domenica andate alla messa cattolica nelle chiese per solidarietà ai nostri fratelli cristiani. Ebbene, il portavoce della CEI dei Vescovi Italiani, Don Ivan Maffeis, ha commentato così: l'appello del Centro per il culto musulmano francese è fatto proprio anche dall'italiana Coreis affinché i musulmani siano domenica a messa per dare ai cattolici un segno di solidarietà, è un gesto enorme, mette fuori gioco chi vuole dividere, chi vuole una strategia del terrore. E poi c'è un'altra iniziativa particolare che viene dal mondo musulmano ed è questa: avviene sulla scia della provocazione lanciata da Mahsa Alinejad, che è una giornalista attivista iraniana che dal 2009 vive in esilio tra Londra e New York e fondatrice della pagina Facebook My Stilly Freedom, la mia libertà clandestina. È già famosa per le sue battaglie contro l'oppressione delle donne e aveva invitato le donne del suo paese a fotografarsi dell'Iran senza velo sulla testa e a postare quelle immagini, un segno di protesta, di rivolta in uno stato dove portare il hijab, il velo islamico, è obbligatorio per legge. La giornalista quindi adesso ha lanciato l'appello agli uomini, dice: ho pensato che invitarli a sostenere i nostri diritti sarebbe stata una cosa importante. Ebbene, adesso su Instagram, Twitter e altri social network circola l'hashtag Men in Hijab e sono adesso gli uomini iraniani che hanno iniziato a caricare le loro foto mentre indossano il velo accanto a mogli, amiche, sorelle, donne della famiglia. Un modo, dicono, per farsi testimoni della sofferenza che l'obbligo di indossare quell'indumento provoca nelle donne, ma anche un modo per provare sulla propria pelle quando un'imposizione del genere possa ledere i diritti di ogni essere umano. E siamo al Papa in Polonia. Il silenzio di Francesco nella visita di Auschwitz è stato il simbolo di questa giornata. Signore, abbi pietà del tuo popolo, Signore, perdona tanta crudeltà. È il messaggio scritto in spagnolo lasciato dal Papa sul registro al termine della visita ad Auschwitz. Francesco ha varcato da solo il cancello del campo, del lager, ha pregato e è rimasto in silenzio. Nel ritorno a Cracovia, la giornata mondiale della gioventù, Francesco ha invece rilanciato l'interrogativo sul silenzio di Dio. Dove è Dio se nel mondo c'è il male, se ci sono uomini affamati, assetati, senza tetto, profughi, rifugiati? Dove è Dio quando persone innocenti muoiono a causa della violenza, del terrorismo, delle guerre? Dov'è Dio quando malattie spietate rompono legami di vita e di affetto? O quando i bambini vengono sfruttati, umiliati e anch'essi soffrono a causa di gravi patologie? Dov'è Dio di fronte all'inquietudine dei dubbiosi e degli afflitti nell'anima? Esistono domande per le quali non ci sono risposte umane. Eh già. Presidenziali americani adesso alla convention democratica. Hillary accetta la nomination, dice si apre un nuovo capitolo. Alla Casa Bianca porterò la voce di tutti. L'America è a una resa dei conti. Potenti forze minacciano di dividerci, ma uniti, dice Hillary Clinton, siamo più forti. E più tardi, vi dicevo, faremo un bilancio delle due convention. Cercheremo di capire anche quale America voterà per Hillary Clinton e quale America per Donald Trump. In Italia adesso invece con i dati positivi sull'occupazione anche giovanile. Gli occupati salgono per il quarto mese consecutivo a giugno e segnano più 0,3%, ovvero 71.000 persone in più rispetto a maggio. A crescere nel mese sono soprattutto i lavoratori indipendenti, spiega l'Istat. Risale però anche il tasso di disoccupazione all'11,6%. Il motivo è da ricercare nel calo degli inattivi, sottolinea Roberto Monducci dell'Istituto di Statistica. Questo effetto sembra paradossale, c'è un aumento di occupazione e un aumento di disoccupazione, ma in realtà la spiegazione è semplice: questi due indicatori salgono entrambi perché le persone sono più attive sul mercato del lavoro, sia perché trovano un lavoro, sia perché lo cercano, e quindi cala l'inattività. Buone notizie per i giovani tra i 15 e i 24 anni: per loro la disoccupazione scende al 36,5%, livello più basso da ottobre 2012. A gioire nei 12 mesi anche gli over 50 e gli under 35, mentre soffre la fascia intermedia. Soddisfatto Matteo Renzi. Fatti non parole, questo è il Jobs Act, il suo commento su Twitter. Resta ancora molto da fare, ma la strada è quella giusta, dice il ministro Poletti. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E continuiamo a parlare di lavoro e di pensioni. Il confronto va avanti, ma a questo punto tutto rimandato a settembre, dopo la pausa estiva. Oggi ultimo incontro tra governo e sindacati sulle pensioni. Si conclude con l'impegno del ministro del lavoro Poletti a rivedersi a settembre, già fissate le date degli incontri, e a destinare ingenti risorse per introdurre elementi di flessibilità in uscita, a cominciare dall'anticipo pensionistico. Sarà proprio quello delle risorse il tema centrale del confronto autunnale. Per i sindacati sarebbero necessari almeno 2,5 miliardi di euro, mentre la dote utilizzabile dal governo sarebbe, secondo indiscrezioni, di 1,5 miliardi. CGIL, CISL e UIL sono comunque per ora fiduciosi, così Anna Maria Furlan, CISL. Un incontro importante e positivo. Ora ovviamente i primi di settembre siamo in attesa di sapere le ingenti risorse quante saranno. Prosegue anche il confronto tra Confindustria e sindacati sul lavoro e sulle nuove relazioni industriali. Il primo settembre è il nuovo appuntamento per definire una proposta unitaria sul tema degli ammortizzatori sociali da presentare al governo. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di occupazione e di preoccupazione per l'occupazione, come il resto degli europei, gli italiani identificano immigrazione e terrorismo quali principali sfide per l'Unione Europea che l'Unione deve affrontare, ma per il proprio paese indicano disoccupazione e situazione economica in testa come preoccupazione. Emerge dall'Eurobarometro pubblicato dalla Commissione Europea sulla base di un sondaggio condotto tra il 21 e il 31 maggio in 34 paesi. E se il 28% della media dei cittadini europei tende a fidarsi del Parlamento nazionale, in Italia il dato scende al 19%. Un po' di tosse, vediamo se torna. Per l'economia è alta invece l'attesa per la pubblicazione alle 22 di oggi degli esiti degli stress test sulle banche europee. Domani ampio spazio anche sulle pagine del Sole 24 Ore, e noi cercheremo per le 22 di cogliere proprio al momento in diretta i risultati. Tre stress test che riguardano anche cinque banche italiane: Unicredit, Intesa San Paolo, Banca Popolare, UbiBanca e Monte dei Paschi di Siena. E proprio a proposito del Monte dei Paschi di Siena, la Banca Centrale Europea ha approvato il piano di risanamento presentato dalla banca. La BCE ha chiesto alla banca di cedere 10 miliardi di sofferenze nette al 2018. Parliamo adesso della RAI nuovamente nella bufera. Le possibili epurazioni dei vertici RAI non piacciono al Movimento 5 Stelle. Ad intervenire proprio Roberto Fico, presidente della Commissione Vigilanza, sulle voci di possibili novità nella direzione dei TG. In vista della campagna referendaria cruciale per la democrazia, dice Fico, non si proceda a nominare direttori di testata schierati per l'uno o per l'altro campo. Fino ad oggi i dati parlano chiaro, prosegue. Il sì è dilagante. Dobbiamo scongiurare qualsiasi tentativo di blitz autoritario, ma l'esponente 5 Stelle non si ferma qui e parla anche dello scandalo sugli stipendi dei vertici di Viale Mazzini, che superano di molto la quota fissata dalla legge per i dirigenti pubblici. Se il tetto non viene rispettato, gli unici responsabili sono Renzi e la maggioranza. Non solo non hanno fatto nulla per reintrodurre il limite, ma ora fingono anche di indignarsi. Risponde il PD con Francesco Verducci, vicepresidente della Commissione Vigilanza. Fico farnetica, la smetta di intromettersi nelle nomine che spetta alla RAI fare in autonomia. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E parliamo della morte di Marta Marzotto, all'età di 85 anni. Era nata a Reggio Emilia nel 1931, stilista, ex modella, ha lasciato un segno profondo nella vita culturale del paese. È morta dopo una breve malattia, vissuta nella massima riservatezza, circondata dall'affetto dei suoi figli e dei suoi nipoti. Poi ci faremo fare questo ritratto particolare da chi ha scritto con lei la biografia, il libro che è uscito un mese fa. In Svezia, la Svezia si preoccupa della sessualità dei suoi cittadini, si appresta a lanciare uno studio ufficiale di 3 anni sulla vita sessuale dei suoi cittadini, il primo in 20 anni. Il ministro della Sanità del paese scandinavo ha detto che una politica di salute sessuale sana dovrebbe essere guidata non solo dai problemi ma anche dagli aspetti legati al piacere sessuale. Da dei sondaggi effettuati recentemente da dei tabloid è emerso che gli svedesi praticano meno sesso rispetto al passato, così ha scritto il ministro sul quotidiano Dagens Nyheter. Il nuovo studio citato da BBC dovrebbe proprio cercare di verificare se è vero e, nel caso di una risposta affermativa, cercare di capire il perché. Per chiudere, fine settimana di partenze, questo, come dicevamo, tra poco tutti gli aggiornamenti sul traffico, mentre sul fronte meteo sentiremo poi le previsioni per il fine settimana, ma dovrebbe essere bello con il nostro Paolo Corazzon alla fine. Messaggi, dopo ne leggo uno un po' buffo che è arrivato, ma sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, a proposito dell'interrogativo rilanciato dal Papa oggi, che ha detto dov'è Dio se ci sono i profughi, il terrorismo, il dolore, eccetera. Ilaria dice: bellissime domande, profonde, a me urgerebbe le risposte però, dice, mentre Simone dice: se non lo sa lui. E poi Luciano: questo mondo l'ha creato Dio ma siamo noi a gestirlo, se è vero che ci sono persone che muoiono di fame è pur vero che ci sono persone che vivono nel lusso più sfrenato. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi, le vostre riflessioni sui temi del giorno alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che è il numero per gli sms o per i whatsapp. Michele, rispetto all'interrogativo del Papa su dov'è Dio, se ci sono i profughi, il terrorismo, la sofferenza, dice: Dio non esiste, si rassegni il Papa. Invece c'è un ascoltatore, Maurizio Volpe da Udine, che vorrebbe che io non andassi mai in ferie, evidentemente. Dice: a Udine c'è un panificio che d'estate chiude per un mese, da quando l'ho saputo non ci sono più andato, farò così anche con Effetto Notte. Maurizio, abbi pazienza, vorrei anche restare con voi ma vorrei anche un po' staccare come tutti, no? Mi sembra umano. Io, Maurizio, non te la prendere per un po' di vacanze che mi sembrano anche, diciamo, un po' agognate e guadagnate. Tra poco cominceremo a entrare nel cuore degli argomenti. Vi ricordo però quali sono, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti della giornata. Via libera della Banca Centrale Europea, il piano per MPS, il piano di salvataggio di Mediobanca e JP Morgan. E poi musulmani a messa domenica contro il terrore, plauso dei vescovi italiani, appello degli imam, dicono solidarietà in Francia e in Italia. Il Papa d'Auschwitz: signore, perdona tanta crudeltà, scrive così in spagnolo sul registro a termine della sua visita silenziosa. E poi lancia questo interrogativo su Dio dov'è con tanta sofferenza, coi profughi, col terrorismo, quando torna a Cracovia per la giornata mondiale della gioventù. La nomination di Hillary Clinton in America: si apre un nuovo capitolo, dice lei, accetto con umiltà la nomination alla Casa Bianca, porterò la voce di tutti. e poi bombe sull'ospedale di Save the Children in Siria. E nel frattempo l'FBI che dice ci sarà una massiccia diaspora di terroristi che alzano il rischio di terrorismo in Europa occidentale e negli Stati Uniti. Cresce in Italia l'occupazione, i giovani senza lavoro sono al minimo, Renzi dice questo è il merito del Jobs Act. E poi l'altolà di Fico del Movimento 5 Stelle sulle nomine RAI è subito polemica, l'opposizione teme il blitz di agosto per le nomine dei TG. E per chiudere, addio Marta Marzotto, musa di Guttuso e signora dei salotti, dalle risaie alla jet set è morta a 85 anni. Ora parliamo di stress test, che non si tratta dello stress, parola utilizzatissima da tutti, no? A cui tutti siamo sottoposti più o meno quotidianamente, chi più chi meno, parliamo invece di banche. Gli stress test sono praticamente una prova di resistenza per valutare la tenuta del sistema bancario nel caso si dovessero verificare degli scenari negativi. È l'EBA, l'autorità bancaria europea, il cui compito è di sorvegliare il mercato, che dovrà dare i risultati di questi stress test che dovrebbero arrivare per le 22. Sotto esame sono 53 istituti europei e anche 5 banche italiane, come ci conferma il vice direttore del Sole 24 Ore, il nostro Chicco Padula. Chicco, buonasera. Buonasera Roberta. Sì, hai detto tutto, guarda, sei stata bravissima. È esattamente, è esattamente così. In realtà anche noi siamo abbastanza sotto stress test adesso, perché siamo in attesa già per le 22, quindi tra una mezz'oretta circa, di questi risultati. E, insomma, è una cosa veramente molto complicata. È una verifica che ogni 2 anni questa autorità, che si chiama EBA, deve fare sulle grandi banche di 15 paesi europei. Sono le banche che hanno un attivo superiore a 30 miliardi di euro, quindi sono le banche molto grandi. Per l'Italia ci sono sotto osservazione, diciamo, 5 banche, che sono Intesa San Paolo, Unicredit, il Banco Popolare, UbiBanca e il Monte dei Paschi di Siena. Tra l'altro sul Monte dei Paschi di Siena, proprio nel pomeriggio, in serata, insomma, è arrivata la conferma che la Banca Centrale Europea avrebbe, diciamo, approvato il piano di salvataggio per MPS, un piano che prevede, diciamo, la vendita di questi asset che si chiamano NPL, cioè sono i non performing loans, sono i diciamo i crediti difficili da recuperare per le banche, diciamo così, e poi in un secondo momento un aumento di capitale che, a quanto si capisce, dovrebbe arrivare fino a 5 miliardi di euro. Per gli stress test, quello che questa autorità, questa EBA, fa è di fatto proprio una simulazione sui bilanci, ipotizzando gli scenari peggiori che potrebbero verificarsi nelle diverse economie. Per esempio, mi sembra di aver capito che per l'Italia lo scenario peggiore, non so, è ad esempio il crollo del PIL del 7%, dell'8%, oppure il fatto che gli interessi sui titoli di Stato possa andare allo spread famoso, possa tornare al 500-600 punti. Quindi aspettiamo i risultati. In realtà già sappiamo che dovrebbero passare questo esame, mi sa, no? Le nostre 4 banche principali, cioè Intesa, Unicredit, Banco Popolare e UbiBanca, passeranno lo stress test. Monte dei Paschi è la banca che è oggettivamente più in difficoltà, ma proprio oggi, diciamo, è arrivata, lo dicevamo prima, la conferma che il piano per metterla in sicurezza è stato approvato dalla BCE. E quindi questo può incidere in questo risultato poi dello stress test alla fine, cioè va a rinforzare la posizione di MPS? Diciamo che il risultato di stasera dell'EBA viene poi comunicato alla BCE, alla Banca Centrale Europea, la quale singolarmente con le diverse banche valuterà se sono necessari interventi sul capitale, ricapitalizzazioni o altre operazioni. Per MPS, diciamo, anche se la situazione che uscirà dagli stress test non sarà buona, e non lo sarà, però c'è già pronto un piano che prevede la vendita di, diciamo, crediti deteriorati e l'aumento di capitale, che dovrebbe rimettere in sicurezza la banca. Molto bene, Chicco Padula, quindi noi aspettiamo insieme a te, insieme allo stress reciproco, uno stress collettivo, i risultati alle 22. Ciao Chicco Padula. E anche buone vacanze. E buone vacanze, è vero. Buone vacanze, è vero, purtroppo Chicco. Vai in vacanza. Purtroppo vado in vacanza, ho fatto molto contrariare un ascoltatore che ha deciso di chiudere con me come col suo panettiere, e vabbè, pazienza. Grazie, va bene, Chicco, va buone bene. Vacanze a te. Ciao, grazie. Chicco. Ciao. most of all, don't believe anyone who says I alone can fix it. Americans don't say I alone can fix it. We say we'll fix it together. Hillary Clinton nel trionfo di chiusura della sua convention democratica ieri a Filadelfia, dice soprattutto, ribadisce questo slogan: noi siamo forti se siamo tutti insieme, non credete in chi dice io sono da solo e ce la farò in questo modo, dice no, la nostra forza è questa di stare insieme. Ci ricolleghiamo con gli Stati Uniti con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore, che ha seguito sia la convention di Trump nell'Ohio, a Cleveland, e sia quella di Filadelfia che si è chiusa per l'appunto ieri, no Marco, quella di Hillary. Adesso comincia la vera campagna elettorale per la corsa alla Casa Bianca e per il voto che ci sarà, le presidenziali ci saranno l'8 novembre. Se tu dovessi dire così molto sinteticamente cosa ha caratterizzato di più la convention di Trump e cosa ha caratterizzato di più quella di Hillary? Ma sicuramente due visioni del mondo, dell'America e del mondo molto diverse, contrapposte, e due visioni della leadership, del ruolo del presidente a loro volta contrapposte. Ecco, diciamo che semmai c'è stata una scelta al di là di singole politiche o al di là della differenza e tradizione tra i due partiti, una scelta più drastica. Ecco, probabilmente non c'è mai stata una scelta più drastica, effettivamente su questo ha ragione Hillary, davanti al paese, proprio per le due visioni e le due personalità coinvolte. Se vuole possiamo riassumere rapidamente. Sì. Sì, guarda, da una parte Trump nella convention di Cleveland ha dipinto un'America debole, un'America quasi sconfitta, un'America che deve tornare a riscoprire i suoi giorni di gloria e che è assediata dal terrorismo, dal crimine, dall'immigrazione illegale e che quindi ha bisogno quasi di ha bisogno di una svolta di leadership, quasi di un salvatore, in questo caso incarnato da lui stesso, da Trump, che si propone come leader forte proprio per la sua forte della sua esperienza di uomo d'affari abile nei negoziati, quasi un po' un deus ex machina, capace di risollevare le sorti di un paese prostrato. Dall'altra Hillary invece ha dipinto un'immagine opposta, un paese certo con sfide aperte, ma un paese che ha compiuto progressi economici, progressi sociali, progressi nella politica internazionale, nella politica estera, in questi 8 anni sotto la guida di Barack Obama, e ha dipinto una leadership, la sua, una leadership fatta di autorevolezza, ma non di autoritarismo, una leadership fatta di cooperazione internazionale e di lavoro per compromessi sul fronte domestico, capace di ottenere risultati concreti sul fronte di nuovi posti di lavoro, sul fronte di nuova crescita, sul fronte della difesa della sicurezza nazionale. Ecco, quindi due immagini e due concezioni di leadership, devo completamente dire, diverse. Senti, Marco Valsania, tra l'altro adesso, se ci dice anche in sintesi, quale sarà quindi l'America che voterà Trump e quale America voterà Hillary? Perché leggevo che adesso Hillary parte subito con il suo vice Tim Kaine per un tour in bus in Pennsylvania e Ohio, che forse sono due degli stati più difficili da conquistare per lei. Sì, sicuramente il segno, diciamo, dell'incertezza e delle sorprese che continuano a caratterizzare questa campagna elettorale proprio nell'immediata partenza di Hillary e Tim Kaine subito dalla convention in due stati, attraverso due stati della cosiddetta Rust Belt, della cintura industriale che vive un po' tra innovazione e rilancio delle punte avanzate del manifatturiero, e sacche invece di disagio e anche tra l'elettorato meno abbiente e bianco. Ecco, il simbolo così dell'incertezza è proprio in questi due stati, che oggi sono oggi i sondaggi ci dicono essere estremamente divisi tra testa a testa tra Hillary e Trump. L'America che voterà Trump su cui punta Trump, a cui Trump chiede il voto, è l'America dei lavoratori bianchi disagiati, che si sentono emarginati e in generale tutti quelli che si sentono alienati dalla politica e dai partiti in un voto di ribellione di forte desiderio di svolta della politica tradizionale. L'America, a cui fa appello invece Hillary, è l'America così arcobaleno, tra virgolette, l'America che mobilita le minoranze etniche assieme agli studenti, ai giovani, e che in questo momento però fatica a fare appello proprio a queste sacche di disagio. Ecco, per questo il viaggio in Pennsylvania, Ohio, bisognerà vedere se Hillary, forte dell'uscita dalla convention, riuscirà a fare breccia anche in questo elettorato che potrebbe rivelarsi decisivo. Marco, c'è anche da voi astensionismo, no? Di incerti ce ne sono molti, tu dicevi appunto, soprattutto lì dove lei sta per partire, per andare, per fare questo tour, deve convincere gli elettori, che furono quelli che poi, uomini bianchi, hanno consentito a Bill Clinton di diventare presidente negli anni 90, no? Quindi, vabbè, la campagna elettorale è appena partita, avremo modo di seguirla man mano con Marco Valsania dagli Stati Uniti. Grazie Marco. Certo. Grazie a te, grazie a voi. Buona continuazione. Adesso ci prendiamo una piccola pausa di ricreazione, come sempre. I vostri messaggi, intanto ringrazio Silvia, Beatrice e Carmine, che mi riconoscono, almeno il diritto qualche volta di staccare. Ci sentiamo più tardi con le vostre riflessioni, i vostri commenti o le vostre domande sui temi principali qui di Effetto Notte al 349-238-6666, che è il numero per i messaggi per i WhatsApp, oppure pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi, da qualsiasi parte del mondo ascoltiate. Ringrazio anche Diop da Torino, vi ho comunicato che questa è l'ultima puntata di Effetto Notte della stagione, poi ci risentiamo a settembre, anche se qualche ascoltatore si è contrariato per questo e vuole chiudere con Effetto Notte come col suo panettiere che chiude per un mese, ma insomma qualcuno ogni tanto bisogna pur staccare, non si può stare 365 giorni all'anno. Comunque, quindi non perdete neanche un minuto della puntata di stasera. Tra poco ci faremo fare un bellissimo ritratto di Marta Mazzotto, da chi l'ha conosciuta molto bene, che ha scritto un libro con lei. Intanto, se non avete acceso puntualmente la radio alle 21, vi ricordo le notizie più importanti e vi ricordo anche che per i vostri messaggi, i vostri commenti, c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per SMS e WhatsApp, che è il 349-238-6666, dove Lino da Avellino dice: tutte balle la sceneggiata organizzata ad uso e consumo degli islamofili nostrani, sempre pronti a giustificare crimini e mattanze in nome di Allah, quella di domenica in chiesa. Di questo appello che hanno fatto il Consiglio Musulmano Francese di andare domenica in chiesa in Francia dopo quello che è successo, appunto, gli ultimi attentati, ed è che è stata un'iniziativa accolta a braccia aperte dalla CEI in Italia, dai vescovi italiani. Secondo Lino è una pagliacciata, dice: solo gli ingenui, coloro in malafede, possono davvero credere che questa pagliacciata servirà a placare le ire degli islamici coranizzati. Questi che hanno organizzato questo evento ridicolo, vedrete quanti parteciperanno, non rappresentano la numerosa comunità islamica. Insomma, è un primo passo, mi sembra che sia già un segnale positivo rispetto al nulla, no? Ecco Lino. Adesso le notizie più importanti e poi passiamo al prossimo tema. La guerra in Siria, ha bombardato l'ospedale pediatrico di Idlib, Save Children denuncia vittime tra bimbi e medici. Terrorismo, l'FBI avverte rischio di diaspora di terroristi senza precedenti, aumenta la possibilità di attentati terroristici nell'Europa occidentale e negli Stati Uniti. L'iniziativa lanciata appunto dal Consiglio francese del culto musulmano, domenica di dialogo musulmani in chiesa con i cattolici, iniziativa anche in 15 città italiane, la CEI commenta: un gesto enorme. Il Papa in Polonia, il silenzio di Francesco nella visita di Auschwitz e durante la Via Crucis a Cracovia, rilancia l'interrogativo sul silenzio di Dio e dice: dov'è Dio se ci sono fame, terrorismo, profughi? Presidenziali americane, alla convention democratica Hillary accetta la nomination e dice: si apre un nuovo capitolo, insieme siamo più forti. Lavoro, cresce l'occupazione, i giovani disoccupati sono al minimo, Renzi commenta: merito del Jobs Act. È morta a 85 anni Marta Mazzotto. Io li ho conosciuti un po' tutti, penso alle mie fotografie con Sean Connery, Con tanti altri, da chiunque, da Tognazzi a Marcello Mastroianni a Sofia Loren. Ma dai, c'ho 81 anni, prego, da casa mia Stefania Sandrelli, cioè, è passato il mondo intero. Ma poi ho anche degli amici, alcuni non ci sono più, come Alberto Moravia, Leonardo Sciascia, Renato Guttuso, mi mancano molto. poco commossa, ma questa è appunto la, diciamo, la cifra di Marta Marzotto, cioè di tutte queste persone che hanno frequentato casa sua, i suoi salotti, una donna piena di vita, una donna che è considerata regina dei salotti, anticonformista, a suo modo all'avanguardia, è nata povera tra le risaie della Lomellina, faceva la mondina come aveva fatto sua madre, addirittura raccontava che passavano topi e bisce tra le gambe, poi apprendista sarta, modella, stilista lei stessa e poi famosa come contessa, addirittura Marta D'Allegari, questa è una dei nomignoli delle espressioni, morta a Milano a 85 anni. Ne parliamo con Laura Laurenzi, giornalista di Repubblica, una delle maestre tra le giornaliste dei temi di costume e società, autrice di molti libri, ha appena pubblicato un libro che ha scritto proprio con Marta Marzotto, che si intitola Smeraldi a colazione, le mie 7 vite. Laura, perché effettivamente 7 o 100 vite, quante ne ha vissute, no? Marta Marzotto, buonasera Laura. Buonasera, ne ha vissute molte. Noi abbiamo scelto insieme questo titolo che alleggeriva un po' il contenuto del libro, che è molto denso ed è anche molto impegnativo, nel senso che si parla soprattutto del suo legame con Guttuso, si parla dello scandalo artistico, politico, culturale che esplose alla morte di Guttuso, quando uscì fuori che lei era tenuta lontana dal capezzale dell'uomo di cui era l'amante, cosa che sapevano tutti. E quindi, siccome era, diciamo, molto non dico opprimente, ma era una verità di cui si era parlato poco e che poteva mettere un po' di, non dico soggezione, ma insomma essere, non abbiamo voluto un po' alleggerirlo e gli abbiamo dato questo titolo che Smeraldi a colazione. Sì, Smeraldi a colazione, quando lei lanciò la moda fondando la Costa Smeralda negli anni 60, che doveva essere un paradiso assoluto perché non c'era niente, c'erano solo questi nababbi con queste mogli belle, ti parlo della Aga Khan, di Gianni Agnelli, appunto di Marzotto, queste signore la sera si vestivano in pompa magna e si mettevano i loro gioielli e lei disse: ma di notte i gioielli veri possono sembrare finti, quelli finti possono sembrare veri, io i miei gioielli me li metto col pareo a colazione in barca. Insomma, è una piccolezza, insomma, comunque ecco, no, il libro parla di una vita che non è stata solo frivola ed è secondo me anche un po' riduttivo parlare di lei come regina dei salotti o regina di cuori o regina di denari, direi piuttosto che è stata una testimonial privilegiata di quella prima repubblica, insomma la prima repubblica del jet set. Basta vedere quant'era irregolare il suo salotto, però altamente frequentato. Quello che diceva lei nella registrazione che avete passato prima, dicendo: io ho conosciuto Moravia, ho conosciuto Sciascia, la Sandarena, insomma lei era prima inter pares, nel senso che vediamo solo cosa sta succedendo oggi alla sua morte, cioè ci accorgiamo che è stato un personaggio veramente di carisma unico e di altrettanta anche umanità, perché poi il suo Successo dell'eccesso, che è il titolo di un pamphlet che lei ha scritto, diciamo che è un po' temperato e reso accettabile dal suo tocco umano, che era che è sempre stato grandissimo, spontaneo, non posato, non finto, non insomma messo in scena, ma reale. Cioè lei è una che non aveva i soldi per le scarpe quando era una ragazzina. Infatti Laura, come ha fatto a passare da quella condizione, cioè di essere stata una donna non solo di grande voracità verso la vita, come l'ha ricordata il figlio Matteo, ma di grande tenacia, di ambizione? Ma tenacia, anche ambizione, ma anche doti oggettive, cioè certo. Lei da mondina no? Passò a fare l'aiutante, l'assistente sartina in una casa di moda, dove un giorno la manchen della casa si ammalò e in fretta e furia fu scaraventata lei, che aveva una lunga treccia bionda sulla passerella, e riuscì benissimo e da allora diventò una manchen. E lei conosce il giovane Marzotto, uno dei fratelli Marzotto, proprio durante una sfilata di moda al Lido di Venezia, moda di costumi da bagno, e da lì nasce la love story. Ed è una, per un certo periodo della sua vita, una vera favola di Cenerentola, cioè lei passa dalle stalle alle stelle, va a abitare a Porto Gruaro in Palazzo Stucchi, che è un palazzo di 7.000 metri quadrati con cappella gentilizia, alloggiato rinascimentale, personale di servizio a decine, eccetera, e impara però a gestire i suoi ospiti con una naturalezza, pur non avendo studiato, non essendo andato oltre la terza media, imparando e imitando, guardando molto il suocero, il padre di suo marito, che le dava le dritte, la portava a corte a Monte Carlo, la portava a pranzo con, con Hemingway, allora lei leggeva l'ultimo libro di Hemingway per prepararsi a questo incontro, insomma è sempre stata molto attenta, una spugna ma anche dotata di grande tenacia, come dicevi tu, e forza di volontà. Quindi con il conte Marzotto poi ha 5 figli, però esuberante e piena di voglia di vivere anche in questo senso, anche di relazioni sentimentali, no? Perché c'è stato sì, relazioni sentimentali, però lei racconta in questo nostro libro che prima a tradirla fu marito e la tradì proprio con la sua, non con una sua migliore amica, ma con più di una sua migliore amica, e quindi lei non fece nessuna scenata perché lo giudicava probabilmente non consono al suo livello, al livello sociale al quale era assurda, diciamo, e però si regolò di conseguenza. In ogni caso quello con Guttuso è stato più di un amore parallelo, perché lei fu investita da una tale forza di attrazione da parte di lui, nel grande senso passione. Che lui era semplicemente stregato, ipnotizzato, soggiogato dalla solarità e dalla sensualità di questa giovane donna, di questa sorta di Dea Kalì, così lei si è definita nel libro, con 5 figli, e accogliente, esuberante, piena di sempre di buon umore, mai cupa, tanto quanto lui invece era, appunto, tendeva al tetro, con un senso dell'umorismo molto difficile da scovare, eccetera. Quindi è una lui il pictor optimus del Partito Comunista, premio Lenin per la pace, e con una contessa, insomma, cognome abbastanza altisonante, era una simbiosi che faceva scintille. E poi su questo amore, che è durato una 20 anni, si è inserito un'altra storia altrettanto parallela al matrimonio, Lucio Magri, un certo uomo che era Lucio Magri, intellettuale, che era tutto comunista. Quello Guttuso che Guttuso non era, sì, intellettuale comunista, però anche sciupa femmine, bello, fascinoso, traditore, infedele, viziatissimo, insomma sono le pagine più divertenti e forse più cattive del libro queste. Senti Laura, perché molti dicono, appunto, e anche titolano, o la si amava o la si odiava, proprio perché tu dici, per questo carisma, per questa sua personalità così forte, così esuberante, così anticonformista? Ma forse la si odiava perché non la si conosceva, perché era una persona talmente alla mano nel suo privilegio. Ecco, lei ha sempre vissuto sull'onda di un privilegio, di una scarica di privilegi assoluti, qualunque cosa facesse, dovunque andasse le si srotolava il tappeto rosso idealmente sotto i piedi, quindi probabilmente poteva essere invidiata. Però invidiare Marta Marzotto è insensato, perché non è una persona di riferimento a cui si può tentare di somigliare. Insomma, è a sé stante. Diffidate delle imitazioni. Laura, sì. Ti faccio sentire questo brevissimo passaggio che dà il senso un po' di quello che hai detto. Se ci sono dei privilegi, prima o poi li paghi. Nessuno regala niente né a Maria Rossa né a Marta Marzotto. Lei ha pagato qualcosa, secondo te, per questi privilegi? Oh, ha voglia. Lei ha pagato tantissimo, non solo ha pagato perché c'è la disgrazia più grande, cioè la morte di una figlia, ma questo era indipendente da ogni suo atteggiamento, ma perché lei, quando Guttuso muore, quando lei perde, nel giro di una notte perde l'uomo che l'amava più di tutti, che è Guttuso, ma Magri se la dà a gambe, batte in ritirata, e il marito, una volta che la love story è diventata di pubblico dominio, quindi non si può più far finta di niente, chiede il divorzio, quindi lei perde contemporaneamente i 3 uomini che amava in simultanea, perde i suoi privilegi, perde il suo status, perde la sua immunità, per così dire, e paradossalmente è come se passasse a occupare il banco degli imputati, si deve difendere, e lei dice quello che le accuse di cui io sono stata fatta oggetto quando non avevo commesso nessun crimine dovrebbero esserci raccontate da uno specialista di storia del cannibalismo, insomma è un po' vero. Lei poi, perché noi sottotitoliamo il libro Le 7 vite di Marta Marzotto, perché poi lei si riprende, lei si rialza, lei combatte, lei si ricicla in stilista di moda, firma i parei, firma i caftani, firma gli occhiali da sole, le penne, le valigie, cioè non arretra di fronte a niente. E ecco, il bello è che tutto quello che lei guadagna va sempre, comprese le royalties, le sue royalties su questo libro, vanno tutte a una fondazione che lei ha creato per la ricerca della malattia rara di cui è morta sua figlia, quindi anche una donna, quindi poi, generosa. Laura, una donna generosissima. Laura Lorenzi, allora ricordiamo, intanto ti ringrazio moltissimo e ricordiamo anche il libro scritto con Marta Marzotto, Smeraldi, a colazione Le mie sette vite. Grazie Laura. Grazie a voi. Buona continuazione. Ciao Laura. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi. Vi ricordo, ultima puntata della stagione di Effetto Notte questa, e le notizie più importanti della giornata sono il via libera della Banca Centrale Europea al piano MPS e quindi al piano di salvataggio di Mediobanca e JP Morgan, e poi i musulmani a messa contro il terrore domenica, applauso dei vescovi italiani, appello degli imam, solidarietà sia in Francia che in Italia dopo l'uccisione del prete in Francia. Il Papa d'Auschwitz nella sua visita connotata da un simbolico silenzio scrive nel registro, poi uscendo in spagnolo: Signore, perdona tanta crudeltà. E poi la nomination di Hillary Clinton, si apre un nuovo capitolo, dice lei, accetto con umiltà questa nomination alla Casa Bianca, porterò la voce di tutti. Bombe sull'ospedale di Save the Children in Siria e l'FBI che avverte, ci sarà una massiccia diaspora di terroristi in Europa occidentale e negli Stati Uniti. Cresce in Italia l'occupazione, anche i giovani senza lavoro sono al minimo. E poi ne abbiamo appena parlato, è morta Marta Marzotto, 85 anni. E adesso invece lo spazio europeo, è pronto il piano per la difesa delle frontiere europee. Europa 24 notte. First time in European Union history agreed to create an agency which would have so-called rapid reaction force group. That would mean 1500 border guards. Per la prima volta nella storia d'Europa abbiamo 1500 uomini pronti ad essere dislocati in modo rapido a difesa delle frontiere europee. Si chiama Nuova Guardia Costiera di Frontiera Europea. Lo strumento dovrebbe entrare in vigore dopo l'estate e rafforzare l'attuale capacità di Frontex, l'agenzia europea responsabile per la gestione e il controllo delle frontiere esterne dell'Europa. A parlare il relatore del nuovo regolamento approvato dal Parlamento di Strasburgo, Artis Pabrix, del Partito Popolare Europeo, secondo il quale questa è la dimostrazione che l'Europa riesce a prendere decisioni in modo veloce ed efficiente. Actually shows that we can make decisions in a speedy way and in very efficient way. Dall'autunno, dunque, in base alle nuove regole, le autorità nazionali continueranno ad occuparsi delle attività giornaliere di gestione delle frontiere, ma se si troveranno dinanzi a una situazione critica potranno chiedere l'intervento del nuovo corpo di polizia al quale appartengono agenti di vari paesi, ma che in breve tempo possono essere mobilitati lì dove servono. Non è una bacchetta magica, dice ancora Artis Pabrix, che può risolvere la crisi dell'immigrazione, ma è un primo passo davvero necessario. Nobody can force country to accept an assistance, but if the country is not managing well its external border, at the same time it is not willing to ask for help. Nessuno potrà forzare un paese a richiedere assistenza, spiega ancora Pabrix, ma se un paese non gestisce bene i suoi confini esterni e non vuole chiedere aiuto, allora c'è la possibilità di reintrodurre temporaneamente i suoi confini interni. È però una possibilità assolutamente improbabile, perché non credo che un paese non voglia chiedere aiuto se non riesce a gestire bene un problema. But I would say it's highly hypothetical decision, because I would not believe that any country is not willing to take assistance if it is not managing something. In realtà la Guardia Costiera, come succede spesso in Europa, è figlia di un compromesso. Nella proposta iniziale, infatti, sarebbe potuta intervenire anche senza la richiesta dei singoli paesi. Insomma, una iniziativa più simbolica e politica, un segnale che le frontiere esterne sono più presidiate e diventano responsabilità comune, come ha detto il vicepresidente della Commissione Europea Timmermans. It will lay the ground for effective and integrated management of our external borders, with a strong focus on prevention. It will be based on the principles of solidarity and shared responsibility. Un passo in avanti, seppur piccolo, verso una politica europea condivisa sull'immigrazione. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Vostri messaggi. Henry dice: ma da lunedì la trasmissione c'è un altro conduttore o non c'è più? E si anneghi al mare, la trasmissione riprenderà lo stesso sicuramente. Allora, intanto ci sarà un altro spazio, Henry. Poi, certo, nessuno è indispensabile, quindi anche se annego ci sarà effetto notte con qualcun altro. Poi mi chiedono ascoltatori, visto che sono così ottimista, Mimmo da Teramo, vado a Saint-Tropez? Non vado a Saint-Tropez. E poi ringrazio invece chi dice: va bene, buone vacanze, vi ringrazio tutti. E adesso invece è tempo di sapere se questa parte d'estate, agosto ormai, sarà buon tempo e soprattutto questo fine settimana. Paolo Corazzoni di Trebimeteo, caro Paolo. Ma buonasera, buonasera Roberta. Guarda, ciao, chiudiamo in bellezza e sono felicissimo di annunciarvi l'arrivo dell'alta pressione, quindi sicuramente questo weekend sarà all'insegna del sole da nord a sud, e semmai con il gran caldo che sarà il vero protagonista, perché guarda, toccheremo temperature all'ombra fino a 35-36 gradi, poi se ci metti anche l'umidità sulla pelle ne sentiremo anche 40, quindi weekend di partenze con il gran caldo in tutta Italia, però è estate e la buona notizia è che l'alta pressione terrà duro, quindi in realtà questo mese di agosto sarà estivo a tutti gli effetti. Sicuramente la prima metà, non che la seconda sia brutta, però attualmente è ancora difficile dare previsioni certe sulla seconda metà di agosto, però è credibile che proceda alla grande questa estate, quindi i vacanzieri d'agosto dovrebbero vedere bel tempo in tutta Italia, insomma, e non solo, in tutto il Mediterraneo, alta pressione, temperature alte, quindi l'estate ha ancora il meglio di sé da mostrarci. Bene, allora ci lasci con buone notizie, buona estate anche a te Paolo Corazzone, a presto. Grazie, buona estate a tutti. Ciao caro Paolo. Noi ci lasciamo momentaneamente e ci risentiamo alle 22.